La seconda parte del podcast di Banda Larga apre con una intervista. Alice e Sam dialogano questa volta a proposito del progetto Nove Vite e di un momento di svolta fondamentale nella vita di Sam e di tanti altri ragazzi e ragazze con la stessa esperienza sulle spalle. Siamo a Radio Città Fujiko con il mio amico Samuele, 17 anni, con cui abbiamo approfondito un argomento molto forte. Quindi direi di partire con le domande. Va bene, Samuele? Certo, io sono prontissimo. Perfetto. Allora, la prima domanda è: quando hai capito che continuando su quella strada ti saresti perso? Non è stato un giorno preciso, in realtà è successo un po' alla volta, ecco. Ho capito che stavo andando sulla strada sbagliata quando ho cominciato a fare cose per piacere agli altri. Soltanto perché gli altri le facevano, io volevo essere come loro. Ovviamente avrai avuto un percorso di cambiamento in cui ci sono state delle cose che ti hanno fatto cambiare. Quali sono queste cose? Ho avuto un processo a giugno dove mi hanno dato un'opportunità. Io questa opportunità ho voluto coglierla al 100% e a portare un grosso cambiamento nella mia vita, trasferendomi a casa di mia madre e cambiando totalmente lo stile di vita. Ok, hai detto che ti sei trasferito da tua mamma, quindi persone che ti hanno aiutato ce ne sono state? Sì. Mamma, assistenti. Molte volte non me ne accorgevo, però andando avanti con il tempo sono cresciuto e praticamente tutte le persone che mi volevano bene mi sono state vicine anche quando io non te ne accorgevo. Esatto, quando non me ne accorgevo. Però alla fine io penso che la persona più importante che mi ha aiutato sono io, quando ho deciso di cambiare, perché era una scelta mia, perché certo, loro da molto tempo mi dicevano di cambiare e io non ci stavo con la testa, non lo volevo capire. E quindi è anche grazie a me. Perfetto. Cacionisto 5. Oh yes, l'avete sentito il 5? Allora, tu hai detto che ti sei trasferito, hai cambiato persone, hai cambiato stile di vita, probabilmente hai lasciato anche persone che sapevi non fossero buone per te, però ti è dispiaciuto lasciarle perché magari ci avevi creato dei rapporti, però sapevi che erano magari meglio lasciarle da parte per quello che stavi provando ad affrontare. Allora, questo è stato l'unico processo mentale che è avvenuto da un giorno all'altro. Sì, è stato difficile, però ho detto questa è la cosa giusta da fare. Ti sei sentito giusto? Sì, ho fatto la cosa giusta, chiudere ogni rapporto di amicizia, anche con persone a cui volevo bene, che fino al giorno prima magari chiamavo fratello, cui mangiavo e dormivo assieme, passavo tutto il giorno, e loro, queste persone alla fine si sono rivelate quello che erano realmente, delle persone di merda che non gli interessava realmente di me e che avevano soltanto, esatto, che avevano anche un secondo fine nei miei confronti. Un progetto che si chiama Nove Vite, ho saputo che tu ne fai parte, quindi se ci vuoi un po' parlare di un'introduzione veloce così tatac. Certo, allora io vado a questo progetto all'Oratorio San Savino a Corticella, dove praticamente il progetto consiste nel riunire ragazzi del penale insieme a ragazzi tra virgolette normali, diciamo, diversi da loro. Questo si fa per far sentire accettati comunque in una comunità di persone diverse dalle persone che magari frequentano loro, per farli sentire normali, accettati, e che comunque cioè noi non li vediamo per i loro reati, ma per la persona che sono. Per la persona che sono. E che magari stanno cercando di diventare come il nostro Samuele. Che non riescono, però, perché purtroppo non hanno magari la famiglia che gli sta vicino e quindi magari non hanno neanche i soldi per vivere, quindi una cosa è un cane che si morde la coda, purtroppo. Thank you. Grazie Alice e grazie Sam, il vostro entusiasmo è contagioso e ne siamo consapevoli. Ora andiamo avanti con un nuovo contributo della nostra Ross. Ricapitolando, questo è Banda Larga, questo è il podcast finale di questo. Siamo stati tutte le settimane in una stanza Radio Città Fujiko, in una stanza piena di adolescenti. Potevano forse mancare i videogame? Oggi parleremo di Silent Hill, che è una serie di videogiochi horror, psicologici e survival. Quindi è un gioco di combattimento perché si devono ammazzare i mostri, trovare risorse, completare puzzle, eccetera. I protagonisti di questo gioco vanno in questa città che si chiama infatti Silent Hill per cercare qualcuno per loro importante, tipo amante, sorella, figlia, fidanzato. Boh, cioè, quello lì. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. Questa città però è più o meno abbandonata, cioè che non c'è nessuno che ci vive, a parte i mostri che perseguitano il protagonista, quindi noi, cioè il giocatore, e che quindi si devono uccidere perché sennò muori. E questi mostri però hanno una specialità, che prendono la forma di un qualcosa legato al protagonista per tormentarlo. Infatti anche Silent Hill la città si trasforma, sempre per tormentare il personaggio, che però rispecchia il passato di quel personaggio o lo stato d'animo. E quindi se due persone si incontrano vedono cose diverse dall'altro. Tipo, non so, una persona vede un bellissimo unicorno tutto rosa, luccicante, mentre l'altro non vede l'unicorno, ma vede un mostro orribile, sanguinoso, brutto, mamma mia, fa paura. Ho scoperto Silent Hill? Allora, io di videogiochi horror ne ho visti molti, ma li ho iniziati a guardare soprattutto quando ero piccola, perché non avevo nessuna restrizione dai miei genitori su internet, e l'internet era molto accessibile molto tempo fa, in realtà no, molto tempo fa non troppo, però era qualche anno fa, quindi se andavi su YouTube a cercare, non so, corpi morti, lo trovavi. Perché YouTube era così, cioè. E quindi rimanevo lì attaccata al tablet per ore e ore a guardare video di sti videogiochi horror, ma un po' per scappare dalla vita noiosa che avevo, e anche un po' traumatica, e non ne voglio parlare, quindi passiamo avanti. Da qui ho scoperto gli horror da bambina, che mi hanno portato oggi a scoprire Silent Hill. I think you should stay away. This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog either. Questo è uno dei giochi che mi fa sentire tantissime emozioni, che altri infatti non mi fanno sentire. E a me piacciono moltissimo gli horror psicologici, ed è anche il mio genere preferito, ma Silent Hill mi sta veramente a cuore, mi dà davvero tanto comfort da quello che ho passato io, e mi aiuta ad avere molta più empatia sulla gente che conosco, ma anche stranieri, e ad avere prospettive sulla vita. E ora è il momento di Nat, soprannominata dal primo giorno di laboratorio con il buffo nome di Bo, con una storia che intreccia una vicenda di amicizia ad una sportiva. Piacere a tutti, mi chiamo Rosa e vorrei raccontarvi una storia di sport e di amicizia che ho perso. Praticamente ho conosciuto questa ragazza qua a 11 anni, mentre pattinavo con altre due mie amichette. Lei si era messa a fare amicizia con noi, visto che aveva visto che le mie amiche non sapevano pattinare, E niente di che, dopo quella sera lì non ci siamo più viste per 2 anni interi, però poi dopo ad un certo momento ci siamo riviste in giro e poi siamo diventate migliori amiche. Mi ha introdotto la palestra, il Club Atletico Bologna, mi ero innamorata della palestra, infatti già il giorno di prova l'allenatore ha detto che ero più brava della mia amica, che ci andava già da prima. Da lì in poi è diventata stragelosa di me. Ho notato delle cose, infatti, di lei che non avevo notato prima. Aveva iniziato a copiare il modo come mi truccavo e mi prendeva i vestiti, mi portava pure nella brutta strada, cioè nella cattiva strada. Mi ha fatto iniziare a fumare le canne e a disobbedire i miei genitori. A un certo momento ho capito che stavo sbagliando, infatti avevo smesso di uscirci, a esserci amica, la ignoravo, però comunque ho continuato a fare sollevamento pesi e dare tutto ciò che avevo, quello che avevo e quello che potevo. La palestra era la mia casa. Arrivò il giorno in cui il mio allenatore mi disse: tu il 5 maggio puoi fare la gara? Cioè vorresti fare la gara? Io ero strafelice, ma lei no, perché non è stata selezionata per fare la gara, visto che l'allenatore ha detto che non si allenava bene e si continuava a lamentare qua e di là e veniva solo per fare mostra e fare le foto, mettersi i completini per le foto. Arrivò il giorno della gara, 5 maggio 2024. Ho spaccato, avevo iniziato da qualche mese e comunque sono arrivato al primo posto ed ero strafelice a mostrare a mio padre la medaglia d'oro che ho portato a casa. Grazie Nat, lo sport è sempre un bellissimo e sanissimo toccasana e grazie per aver condiviso con noi la tua storia, ma adesso abbiamo bisogno di un po' di musica e per questo ci pensa Costa. Ciao a tutti, mi chiamo Costa e oggi ho portato una piccola presentazione del mio paese e anche qualche tradizione. Questo paese è la Moldavia, è un piccolo paese dell'Europa orientale situato tra Romania e Ucraina. Questo paese è noto per i suoi paesaggi collinari e medievali e anche i vigneti. La capitale della Moldavia è Chișinău, una città giovane e dinamica, famosa per i parchi e l'architettura sovietica e una vivace scena culturale. Adesso vi dirò qualche tradizione moldava. Le tradizioni moldave si esprimono soprattutto in musica e la danza tradizionale, la cucina e le feste e i rituali. La musica, cioè la hoara e la sarba, sono danze popolari molto diffuse. Gli strumenti tipici sono il violino e la kobza. In cucina il piatto simbolo della Moldavia è la mamăligă, che è una polenta, sermale, sono i voltini di cavolo ripieni e anche delle zuppe come il borscht. Le feste, i rituali, c'è il periodo natalizio che è accompagnato da canti tradizionali. Abbiamo la folcloresca, che è una tradizione trasmessa spesso oralmente e legata all'identità storica di una comunità, come le feste, i canti e i balli. E come rituali, il 1° marzo si festeggia il mărțișor, che è un filo bianco e rosso che simboleggia la primavera. È regalato per augurare fortuna. Grazie Costa per questi bellissimi ed evocativi suoni dalla Moldavia e arriviamo ora al contributo finale, quello che, io lo confesso, ho fortemente voluto fin dal primo giorno. Abbiamo pensato di usare questo spazio anche per dar libero sfogo a pensieri in libertà e per farlo i ragazzi hanno scelto un argomento non da poco, ma che li tocca da vicino. Sappiamo bene che purtroppo le esposizioni alle prime sostanze sono proprio in questa fascia di età. E così abbiamo invitato i ragazzi e le ragazze di Banda Larga a confrontarsi liberamente su questo tema. E noi così lo riportiamo. Allora, l'uso di droghe che cos'è fondamentalmente? Allora, l'uso di droghe non si basa soltanto sul prendo e mi faccio una canna, bensì ci sono molti aspetti da considerare dietro. Per esempio, c'è chi ne fa uso per scappare dai problemi, c'è chi ne fa uso perché cerca sensazioni nuove, c'è chi ne fa uso a livello medico anche, perché vengono usate anche come medicine, per esempio la morfina, oppure anche la cannabis è prescritta a volte dai dottori. È anche una medicina, no? Quindi c'è gente che alcune droghe possono usarle per la loro salute e non perché stanno male. E quindi questa cosa non mi dispiace tanto, ma se una persona lo fa perché sta male e poi gli arriva una dipendenza, quello è una cosa che non riesco a sopportare. C'è gente che soffre dentro di sé, non sa come sfogarsi e si sfoga sulla droga, o gente che comunque lo usa anche come passatempo. Penso che le persone che fanno uso di droghe abbiano dei problemi e pensano che usando queste sostanze li aiutano, quando sarebbe tutto il contrario. Li peggiorano solo i problemi, aumentano anche i problemi di salute e altri problemi simili. Una domanda che mi viene fatta ogni giorno: cosa ne pensi della droga? Io, che sono uno sportivo, dico sempre: non l'ho mai provata, soprattutto per la mia salute, ma anche per i miei genitori. La cosa brutta per le ragazze che fanno tutti sti usi è che se ti sta proprio male nella vita, l'unica cosa che ti fa venire voglia di continuare a vivere è il fatto che una volta incinta devi smettere anche con le sigarette. Per il bimbo, infatti, potrebbe portare in depressione la madre solo per non far del male al bimbo, se lo vuole tenere, a causa dell'astinenza. Poi c'è altra gente che gli viene data, comunque è sempre droga che gli viene prescritta. La cosa che accomuna, diciamo, lo stereotipo di una persona che si droga è la dipendenza, che abbatte un po' la persona, la minimalizza, la rende qualcosa che probabilmente non è. Perché la dipendenza, che cosa fa? Ti rende appunto dipendente da una sostanza che ti altera la testa, ti altera il modo di pensare, non ti rende lucido. E se vedo che una persona sta così male, invece di star lì a guardare, io l'aiuterei in qualche modo, perché drogarsi è la scelta più peggiore che potresti fare in una situazione brutta della vita. Però capisco che c'è gente che ne ha proprio bisogno. Questo significa che tu fai anche fatica a prendere decisioni normali, per esempio mangio questo o mangio quello, non sai cosa scegliere, perché non sei, come se non fossi tu a decidere in quel momento. Io personalmente ho avuto esperienze con persone care che hanno usato sostanze e dopo sono stati violenti con persone familiari. C'è gente che la usa per fare casomai il figo, non lo so, per seguire la moda. Poi c'è altra gente che ne fa uso perché gli serve veramente, forse per sciogliersi un po', per aprire la testa, per pensare a tantissime cose. È una cosa che comunque non fa bene al corpo, ma ti può far capire tantissime cose. La droga invece, una volta avuto la dipendenza, ti possono venire paranoie, ciò che ti porta a fare altro consumo di droga. Invece per l'alcol, dopo tante volte, ti viene l'Alzheimer. Sinceramente la droga mi spaventa davvero tanto, perché ho visto cosa ha fatto alle persone che la usano, ma non voglio usarla soprattutto anche per rispetto di mia madre, perché uno, le voglio un botto di bene, due, non ha passato così tanto tempo a farmi crescere solo per vedere una figlia che si droga. Direi che è meglio evitarle queste sostanze, perché ti fanno perdere totalmente il controllo e ti fanno cambiare completamente personalità. Uno, non voglio farla soffrire. Due, probabilmente se mi viene una dipendenza poi perdo i soldi, perché voglio sempre drogarmi. E già la situazione a casa mia con i soldi non è la migliore, quindi sarebbe molto peggio anche per mia madre e dovrebbe lavorare di più. La droga e l'alcol non fanno per tutti, infatti ci sono quelli che non ne fanno uso, e invece quelli che una volta in botta guardano il passato, cioè i momenti brutti della loro vita, e cercano litigio, si mettono a litigare con tutti, oppure che iniziano a tentare il suicidio e piangono mentre si fanno del male. Invece ci sono quelli che guardano il futuro, oppure il presente, e sono divertenti e dolci. Fanno cavolate, sì, ma cavolate che non si fanno del male, o a se stessi o agli altri. Io penso che le droghe, la gente che ne fa uso, comunque ci sono diversi motivi per cui la gente ne fa uso. C'è gente che soffre dentro di sé, non sa come sfogarsi e si sfoga sulla droga. O gente che comunque lo usa anche come passatempo. Quindi per me è davvero importante sta roba, sia per la salute, sia infatti per il rispetto di mia madre, perché sì, non voglio farla soffrire più di quanto ha sofferto e non voglio che succeda anche a me di soffrire. Ecco, le voci che avete sentito non sono una ricerca di verità o certezza, ma piuttosto uno spazio libero di confronto, un microfono aperto, uno spazio quindi anche di reciproco ascolto. E penso che ne siamo usciti tutti più arricchiti. E con questo è tutto, il podcast di Banda Larga finisce qui e scorrono i titoli di coda, perché è giusto ricordare che Banda Larga è un progetto di Radio Città Fujiko con il sostegno di Fondazione Carisbo e FOMAL e in collaborazione con USSM Bologna e OA Records Officina Adolescenti. Io sono Stefano Migliore e vorrei personalmente ringraziare di tutto cuore Manuel Rexepi e Francesca Fava di FOMAL per il loro supporto, Rossella Fumarola e Antonella Matassa di USSM Bologna, Claudio Succi, Sergio Fanti, Alessandro Canella di Radio Città Fujiko per il supporto tecnico, Giampaolo Vulcano e Gianluca Staffoni di OA Records Officina Adolescenti. Senza di voi questo progetto ormai si può dire non avrebbe più senso. Fatti i ringraziamenti, non mi resta che augurarvi una radiosa giornata.